Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, per quello che riguarda il mercato, la borsa, oggi la giornata è più che positiva, non lo è solo in Italia, ma soprattutto in Italia. Ci sono anche casi che riguardano più il nostro paese, penso al mondo bancario, ma insomma ST Microelectronics più 8,46%, Buzzi Unicem più 7,5%, Fiat più 6,5%, ST Microelectronics si avvantaggia anche di notizie di mercato, così come Fiat sugli incentivi, lo sblocco degli incentivi auto in Brasile, ST Microelectronics per la joint venture con Ericsson. La joint venture con Ericsson ha infatti ottenuto un contratto da Samsung, più 8,5%, dicevamo. Bene anche le banche, più 5,80% Unicredito, più 5,36% Monte dei Paschi, più 4,70% Intesa San Paolo. Bene in tutta Europa, va detto. E l'indice di Milano guadagna il 3,5%, è il più forte oggi in Europa. Parigi più 2, Francoforte più 1,80, Londra più 1,70%, l'America mezzo punto percentuale. L'euro è sotto quota 1,28, 1,27,5. Il petrolio è in calo sensibile a questo punto, a $92 al barile. Due settimane fa eravamo a circa 102 dollari al barile ancora. L'oro è fermo a $1,591 l'oncia. Di cosa parleremo oggi? Del rapporto dell'OCSE, che fotografa, lo dico subito, un'Europa, un'area euro come vaso di coccio nella ripresa globale, e da lì è la parte più debole di questa ripresa globale. C'è anche una dichiarazione, ma ne parleremo con il capo economista Piercarlo Padoan, una dichiarazione a favore degli euro bond, ossia della possibilità che vengano emessi dei titoli di debito non dei singoli paesi ma a livello europeo. Perché? Perché dice l'OCSE, avendo firmato i vari paesi l'accordo, il cosiddetto fiscal compact, per cui tutti i paesi si sono impegnati, si sono vincolati a essere ancora più rigorosi nel bilancio, non c'è il timore adesso che obbligazioni di carattere europeo, titoli di carattere europeo, possono essere un modo per i governi per fare maggior debito, visto gli impegni che hanno preso. E anche sull'Italia l'OCSE dice, attenzione, il costo del lavoro è troppo alto, che non vuol dire i salari, perché il costo del lavoro in Italia è alto per via delle tasse che ci sono tra quanto uno prende in busta paga e quanto invece costa all'azienda, il cosiddetto cuneo fiscale, tasse e contributi. E questo è il primo aspetto di cui parleremo nella seconda ora del programma. L'altro grosso aspetto riguarda l'annuncio fatto oggi dal governo, ministro Passera, primo ministro Monti, ma non solo, per i decreti che arriveranno per sbloccare i crediti che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione. Sono almeno 70 miliardi di euro e il governo ha annunciato a breve 4 decreti per sbloccare. Sentiremo anche le parole del presidente dell'ABI Mussari, delle banche italiane, perché le banche, come spesso abbiamo spiegato, avranno il ruolo appunto di cerniera in questo rapporto fino adesso non sano tra i debiti che lo Stato ha con l'impresa e il fatto che non riesca a pagare queste imprese. E poi c'è anche il rapporto dell'Istat oggi, che fotografa un paese, devo dire alcune cose sono note, l'Istat lavorando su dati tra virgolette vecchi, cioè lavora su dati del 2011, fotografa cose che già sapevamo, ma insomma è sempre importante che vi sia tra virgolette la certificazione statistica. 349-238-6666 per i vostri sms, rapidamente le altre notizie in breve. Lo spread intanto, allora la Spagna ha collocato obbligazioni sul mercato con tassi in rialzo, ma buona la domanda, nel senso che la Spagna è riuscita a collocare 2 miliardi e mezzo di titoli di Stato contro un obiettivo di 2 miliardi e 500, quello iniziale, ne ha collocati per 2 miliardi e 530 milioni. I tassi sono saliti allo 0,84% per i bot spagnoli a 3 mesi, contro 0,63 e all'1,73 per i bot a 6 mesi spagnoli contro l'1,58 del mese scorso. Il nostro BTP, il nostro spread intanto è in calo, anche se resta su livelli obiettivamente insostenibili, 415 punti, e quelli spagnoli a 465 punti, lo spread tra, e quindi la differenza tra quanto costa a noi indebitarci rispetto a quanto non costi la Germania, che è il riferimento che si utilizza. E poi il leader della sinistra greca oggi a Berlino ha detto: attenzione, la medicina per la Grecia non ha funzionato con Atene. Parla Alexis Tsipras, e se il paziente greco non viene guarito ci sarà un contagio della malattia ad altri paesi europei. Se la Grecia dovesse uscire dall'euro vi sarebbero conseguenze anche per l'Italia. Ho concordato con Angela Merkel quando ha detto che se la Grecia uscisse dall'euro i mercati attaccherebbero altri paesi. Ci sono paesi che hanno debiti molto più alti di quello greco, come ad esempio l'Italia. Insomma, Alexis Tsipras, piano. Se lei parla del debito come valore nominale, sì, che discorsi, ma il debito è importante in rapporto al PIL, e mi dispiace dirlo, ma la Grecia ce l'ha più alta. Dopodiché questo non vuol dire che noi possiamo stare tranquilli, e anzi, con un debito pubblico come il nostro, però insomma, dire che ce l'ha più alta l'Italia è un'esattezza. Noi abbiamo 120 quasi per cento del PIL, del debito sul PIL, 119% per la precisione, ma comunque andiamo avanti. Nel frattempo, mentre l'OCSE, come dicevo, prevede un'Italia in doppia recessione sia nel 2012 che nel 2013, meno 1,7% nel 2012, meno 0,4% nel 2013, voglio dire, stavamo ragionando proprio ieri sul fatto che la ripresa prevista per il 2013 fosse veramente debole, più 0,4. Oggi è arrivato l'OCSE, dice: no, sarete in recessione anche nel 2013. Così scaramanticamente rispolveriamo il nostro gufo sempre più spaesato. Dicevo, comunque già l'OCSE dice: attenzione, nel 2013 nulla da fare. E poi solo alla fine del 2013 vi sarà una ripresa dell'economia italiana. Nel frattempo l'intera area euro andrà in recessione nel 2012, meno 0,1%. Ma se l'OCSE dice, si può discutere, ci sono le condizioni per discutere adesso di nuove mosse della Banca Centrale Europea e degli Eurobond. La Germania ha risposto subito, visto che domani c'è il vertice informale dei paesi europei, dei paesi dell'euro, ha detto: no, non sono la strada giusta, non siamo isolati, la Spagna è vicina a noi, e comunque quello degli Eurobond non è il tema di domani. Allora, una risposta a un ascoltatore che dice: diamo tutta la colpa ai tedeschi, alla Merkel. Guardi, lei non ha capito, sicuramente la colpa è mia. Noi non abbiamo mai detto che la colpa sia tutta della Merkel, anzi la Germania non ha alcuna responsabilità né sulla montata del debito italiano né sul scoppio della crisi. La Germania ha, a mio avviso, delle grossissime responsabilità nella gestione della crisi, nel fatto che questa crisi continui a essere ormai europea e i mercati continuano ad avere, o gli speculatori, praterie per scommettere su cosa capiterà all'Europa, perché non arrivano soluzioni o risposte se non tagli, tagli, tagli, che vanno bene ma non possono essere l'unica soluzione. Tutto qua. Nessuno ha mai dato la colpa alla Germania di null'altro, se non di avere un atteggiamento miope nei confronti delle politiche per la crescita oltre che per il rigore. Il fiscal compact, l'accordo dei vari paesi per essere rigorosissimi su deficit e debito, l'abbiamo firmato anche noi, e quello era quello che chiedeva la Germania. Adesso la Germania può, a mio avviso, mollare qualcosa, anche perché è l'unico paese che si sta avvantaggiando a livello europeo della crisi, perché per confronto risulta come il paese più virtuoso. Va bene? Tutto qua. Inutile dire che diamo la colpa ai tedeschi, alla Merkel. La Merkel ha una grossa colpa in come non ha gestito la crisi greca. Se si vuole capire, se poi si vuole fare polemica, si diverta pure. Noi invece proseguiamo con l'Istat, e qui sono dolori, perché l'Istat fotografa una situazione in cui la propensione al risparmio delle famiglie è scesa ai minimi dal 1990. Il carico fiscale sulle famiglie italiane è aumentato progressivamente nel periodo 92-2011, si è passati dal 13,2% al 14% come aumento del carico fiscale, poi un più 15% nel 2011. Al sud sono povere 23 famiglie su 100, al nord 5 famiglie su 100 e il reddito delle famiglie italiane è tornato ai livelli di 10 anni fa. E quindi siamo tornati sostanzialmente al 2001. C'è chi può dire non si stava così male nel 2001, ma non è un ragionamento accettabile quando torni indietro di 10 anni. E poi tra il 93 e il 2011 i salari contrattuali reali sono fermi, cioè i salari degli italiani, quelli che sono lavoratori dipendenti, quindi salariati, sono fermi come potere reale, cioè sono aumentati ma hanno appena coperto l'inflazione. Ancora 2.100.000 giovani che non studiano e non lavorano in Italia e il sommerso è tornato a aumentare, nel senso che vale tra i 250 e i 275 miliardi, stima l'Istat, e siamo al 17% del PIL. Un ultimo dato che la dice lunga sull'effetto della crisi e su chi la sta pagando: nel 2012 una neomamma su 4 ha perso il posto di lavoro. Cioè nel 2012, a 2 anni dalla nascita del figlio, quasi una madre su 4 in precedenza occupata non ha più il posto di lavoro. E quindi a conferma che la crisi si sta scaricando sui giovani, sulle donne mamme. Nel frattempo c'è una bozza del disegno di legge per lo sviluppo, dove si vuole favorire la crescita, creare nuova occupazione, particolare sostegno alla piccola e media impresa. Vabbè, la compensazione IVA che raddoppia a 1 milione, arriva anche un fondo per gli alimenti ai poveri. Vedremo cosa arriverà. Intanto anche la Camera sta avviando una propria spending review, intende richiedere per il prossimo anno una dotazione inferiore, cioè avere meno soldi dallo Stato. La dotazione della Camera è ferma da 3 anni e ammonta comunque a 992 milioni di euro l'anno. E giovedì ha annunciato il presidente dei deputati del PDL Fabrizio Cicchito, arriverà il taglio ai finanziamenti ai partiti. L'ipotesi che abbiamo visto è quella di rinunciare al 50% della tranche che deve arrivare a luglio, 180 milioni di euro. Nel frattempo abbiamo delle notizie sulla crisi, perché quando parliamo di spending review stiamo parlando di revisione della spesa e purtroppo in questa revisione della spesa spesso entrano anche le spese della pubblica amministrazione. Ieri abbiamo già dato sul fronte delle auto blu e auto grigie. Ci avete scritto che non sono solo i presidenti di Trento e Bolzano a girare con macchine che a nostro avviso non servono a niente, anche Podestà all'Audi A8. Io vorrei sapere che cosa serve un Audi A8 da 340 cavalli, 4.000 di cilindrata a un presidente di provincia, che sia Trento, Milano, Bolzano, non me ne frega nulla, ma tanto la risposta non la ottengo. C'è anche chi li ha difesi su questo, mi sembra che ci sono altri modelli sempre dignitosi e l'autista va benissimo per andare in giro senza avere macchine del genere, per di più blindate. Io non faccio il Viminale, non sono il Viminale, ma insomma vorrei capire perché sono così minacciati i presidenti delle province italiane. Se vanno avanti così lo capisco anche da solo. E allora cos'è questa crisi per gli altri? Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Intanto la pubblica amministrazione italiana si scopre che occupa 11.000 immobili di proprietà di altri, quindi affitta, immobili in affitto, e sapete quanto paga? Lo ha chiarito oggi il direttore dell'Agenzia del Demanio, Stefano Scalera, in audizione alla Commissione Finanze della Camera. L'affitto degli immobili della pubblica amministrazione è pari a 1.200.000.000 di euro l'anno, forse qualcosa si può risparmiare da lì. E infatti dice il direttore dell'Agenzia del Demanio che razionalizzare gli spazi degli uffici della pubblica amministrazione può portare a risparmi entro il 2015 pari a 56 milioni. Un po' pochino, 1.200.000.000, 56 milioni, fate un piccolo sforzo, arriviamo a 100, dai che forse ce la facciamo, su 1.200.000.000 puoi risparmiare 100 milioni sugli immobili. Chiedo, visto che sono 11.000 immobili, e su questo comunque attendiamo speranzosi questo risparmio di 56 milioni da entro il 2015. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Nel frattempo, in provincia di Trento, a Cogolo di Peio, spero di pronunciarlo bene, è stato piazzato un distributore automatico di oggetti sacri come crocefissi, rosari e giornali religiosi. Sapete perché? Perché l'ha presa a malincuore lo stesso parroco della chiesa, la chiesa si chiama Santi Filippo Giacomo, Don Pier Giorgio Malacane, non poteva fare altro. L'80% degli oggetti che esponeva in chiesa, giornali compresi, venivano presi senza essere pagati. Alla fine i conti non tornavano mai. E dopo un paio d'anni abbiamo deciso di smettere. Non avevo altra scelta che mettere un distributore automatico di oggetti sacri. Chi invece non ha ancora ricevuto risposta sono le piccole, medie, soprattutto imprese italiane, a cui lo Stato deve, soprattutto nella sanità. Quindi quando dico Stato intendo dire regioni, ASL, province ogni tanto, Stato centrale, non solo Roma, deve almeno 70 miliardi di euro. Pensate che su 180 miliardi di soldi che i vari stati, le varie pubbliche amministrazioni devono alle varie imprese europee, la metà le devono a quelle italiane, cioè sono quelli che lo Stato e la pubblica amministrazione italiana deve alle imprese italiane, con i ritardi medi di 200 giorni, mentre in Francia sono 60, vabbè, in Germania sono 35 giorni. Oggi Palazzo Chigi ha annunciato 4 decreti sui crediti delle imprese con la pubblica amministrazione. 349-238-6666 per i vostri sms, parliamo di questo allora. Allora, le aziende che hanno crediti riconosciuti con la pubblica amministrazione potranno compensarli con debiti iscritti a ruolo alla data del 30 aprile 2012 o ottenere un'anticipazione bancaria assistita da una garanzia fino al 70%, che può arrivare all'80%, con un importo massimo di 2 milioni e mezzo di euro. In alternativa si potrà accedere il credito a intermediari finanziari riconosciuti, come ha spiegato il decreto del governo e quindi il comunicato di Palazzo Chigi. Comunicato di Palazzo Chigi, scusatemi, sui decreti varati oggi dal governo. L'ente debitore avrà 60 giorni di tempo per, quindi se è la ASL, se è la regione, se è comune, se è il ministero, avrà 60 giorni di tempo per rispondere alla richiesta di certificazione dei crediti, e se l'ente non risponde arriverà un commissario ad acta, se l'ente non ha risposto entro 60 giorni. E questo, secondo il premier Mario Monti, sarà carburante alle imprese per riaccendere il loro motore. Penso che il tema di questa conferenza stampa, il recupero dei crediti che le aziende vantano nei confronti della pubblica amministrazione, sia importante, sia fondamentale, perché sono le nostre aziende, a volte proprio quelle più piccole e innovative, che in questa fase economica difficile non hanno abbassato la testa e stanno affrontando la crisi con determinazione. Per questo hanno bisogno di liquidità, di un carburante capace di riaccendere il motore della produttività e di vedere finalmente qualche spiraglio di luce. Per questo abbiamo adottato 4 decreti che mirano a ridurre lo stock dei debiti commerciali di fornitura da parte delle pubbliche amministrazioni. Su questo hanno lavorato intensamente e molto bene insieme il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero dello Sviluppo Economico in particolare. Ma quanti soldi dovrebbero arrivare? Allora, secondo quanto dichiarato dallo stesso Premier Mario Monti, 20-30 miliardi già nel corso del 2012. Il tema del recupero crediti, come vi è ben noto, ha alimentato anche un dibattito politico molto significativo e di cui il Governo ovviamente tiene in considerazione le proposte che sono giunte in Parlamento. Mi riferisco in particolare a quella dell'onorevole Angelino Alfano, che ha proposto di affidare una delega al Governo per la compensazione tra i crediti e i debiti delle imprese con la PA e soprattutto per allineare l'Italia ai principali paesi europei sul pagamento dei debiti. In questo senso il Governo, a conferma dell'impegno pubblicamente assunto nello scorso febbraio con l'Unione Europea, intende recepire la direttiva sui ritardati pagamenti entro la fine del 2012, quindi in anticipo rispetto al termine comunitario previsto, che è metà marzo del prossimo anno. La direttiva, come sapete, regolamenta i termini di pagamento nei rapporti di fornitura e in particolare fissa in 60 giorni il termine massimo non derogabile di pagamento nei rapporti commerciali tra imprese e pubblica amministrazione. Con l'intervento di oggi siamo in grado di realizzare un progressivo rientro del debito commerciale accumulato dalla PA, riuscendo a smaltire una quota di 20-30 miliardi già nel corso di quest'anno. E l'altro tema grosso sul pagamento dei debiti che lo Stato vanta nei confronti delle imprese italiane è se questo non andrà a incidere poi sul calcolo del nostro deficit. Lo ha chiarito in un passaggio abbastanza breve che con questo tipo di decreto, con questa modalità, l'impatto sul deficit non vi sarà, cioè il fatto che lo Stato pagherà, ridarà questi 20, almeno 20 miliardi, 20-30 dice Monti, già nel corso del 2012, non andrà a aumentare il nostro deficit. Sentiamo Grilli su questo. Con questo decreto, in quanto tale, con la certificazione accompagnata da liquidità delle banche e la compensazione dei debiti a ruolo, di per sé l'impatto, se fosse solo con questo processo di certificazione e di compensazione, non c'è. Questo è anche per questo che secondo noi pian piano ci siamo convinti che il processo di compensazione poteva essere una cosa molto utile per tutti. Queste sono sicuramente ulteriori risorse rispetto ai 6 miliardi, perché no, uno compensa. Ho detto che adesso stiamo ancora ragionando come trovare ulteriori risorse. E poi però la soluzione proposta dall'accordo con le banche, adesso chiariremo anche qual è il ruolo delle banche, alta soddisfazione da parte del ministro Passera, dice la risposta è una platea vastissima di imprenditori. Avere la possibilità di certificare, avere la certezza della garanzia del fondo centrale, avere la possibilità di compensare con i debiti a ruolo sono tre strumenti concreti, molto pratici, che vanno nella direzione di venire incontro a un bisogno che è ormai impellente da parte di troppe aziende italiane piegate sotto il peso dei crediti non incassanti, sia della pubblica amministrazione, ma anche molto gravate dall'indebitamento su crediti non incassati da altri privati. L'altro impegno che ci siamo presi è quello di risolvere strutturalmente il problema dei crediti, sia tra privati sia con la pubblica amministrazione, che è quella dell'adozione della direttiva europea che impedirà nel tempo di non pagare se non scadenze 30-60 giorni di debiti nei confronti di altre imprese. Allora, quale sarà il ruolo delle banche? Abbiamo spiegato la parte più tecnica, ossia le aziende che hanno crediti nei confronti, crediti riconosciuti, hanno certificati questi crediti nei confronti della pubblica amministrazione, potranno compensarli con debiti iscritti a ruolo. alla data del 30 aprile 2012 o ottenere un'anticipazione bancaria assistita da una garanzia fino al 70%, elevabile fino all'80% per un importo massimo di 2 milioni e mezzo di euro. In alternativa si potrà accedere il credito a intermediari finanziari riconosciuti, che di solito, come abbiamo spiegato, cosa fanno? Ti danno un po' meno dei soldi che avresti dovuto ricevere, ma intanto a quel punto tu i soldi li ricevi e poi loro si muovono su questo. Sentiamo il ruolo delle banche dalle parole del presidente dell'ABI, Giuseppe Mussari. Le banche dovranno aderire, dovranno, se lo vorranno, aderiranno a questo accordo e l'auspicio ovviamente che vi aderiscono come hanno aderito a tutti gli accordi che l'associazione bancaria fa. Le banche riceveranno questi crediti certificati e concorderanno col cliente quale modalità utilizzare per smobilizzarli, quindi potrà essere una cessione pro soluto e quindi il credito viene acquistato dalla banca, o una cessione pro solvendo che lascia comunque l'imprenditore obbligato con la pubblica amministrazione, o un normale sconto di fatture. Tutte queste tre operazioni sono possibili, tutte queste tre operazioni possono essere assistite dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia a titolo gratuito per le imprese, e quindi non pagano, e a un tasso di interesse, come abbiamo detto, il più vantaggioso possibile senza violare alcuna norma in ordine alla corretta disciplina della concorrenza. Ci siamo impegnati in tempi di risposta molto celeri, voi avete visto come la pubblica amministrazione dovrà rispondere entro 60 giorni, se non risponde entro 60 giorni potrà essere nominato un commissario ad acta che ha 60 giorni di tempo per decidere. Le banche decideranno molto celermente e quello che è importante è che questa anticipazione non inciderà sull'ammontare del credito già concesso all'impresa, quindi sarà un'aggiunta. Perché un'aggiunta? Perché sono crediti nei confronti della pubblica amministrazione e perché il 70% è garantito dal Fondo Centrale di Garanzia. E il presidente Confindustria Marcegaglia, nel augurarsi che questo fondo ridia fiducia alle imprese e le spinga ad investire, ha dato un giudizio complessivamente positivo, soddisfatta infatti la Confindustria per il modo in cui il nodo dei crediti è stato affrontato dal governo. A nome di Confindustria esprimo soddisfazione per quanto è stato fatto e stiamo facendo oggi, sia per l'emanazione dei quattro decreti e dell'accordo, del protocollo con l'ABI. Come è stato detto, questo è un momento complicato e difficile per l'economia italiana, la congiuntura è ancora complessa, c'è un problema serio di liquidità per le imprese, soprattutto per le piccole e medie imprese. Questi provvedimenti, in particolare questi quattro decreti, vengono incontro in modo serio a un'esigenza di liquidità che è molto sentita, direi che forse oggi è la priorità assoluta per le imprese. Vedo molte domande su questo, torneremo sul tema. Mi sembra che, insomma, da quello che abbiamo detto sul decreto e alle modalità che le banche utilizzano, nel caso uno voglia andare in banca, perché ci sono altre due possibilità, come ne spiegavamo, o li cedi a un intermediario finanziario questi crediti, oppure li vai a compensare con debiti iscritti a ruolo. Però nel caso delle banche poi sarà una trattativa tra l'imprenditore e la banca, se ve lo pro soluto, quindi il credito va tutto in carico alla banca, l'imprenditore tiene i soldi, oppure pro solvendo, e cioè questo avviene solo a patto che poi lo Stato effettivamente paghi, o invece con uno sconto sulle fatture. C'è però adesso la borsa, ed è una bella borsa quella di oggi, finalmente, soprattutto a Milano, più 3,41%. Ci chiedete se la Marcegaglia è ancora presidente di Confindustria. Sì, lo è fino a dopodomani infatti arriverà il passaggio formale, come spiegavo prima, di consegne tra Emma Marcegaglia e Giorgio Squinzi, più 3,41%. Ma la notizia di oggi si chiama, in primo luogo, ST Microelectronics, più 8,46%, anche Fiat, più 6,40%, e poi ben intonate tutte le banche. Paolo Paronetto, Radio Corriere, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Partiamo da ST Microelectronics e Fiat, poi dopo il traffico facciamo il resto dei titoli. Sì, ST Microelectronics sono i arrivate notizie positive sulla joint venture con Ericsson, che negli ultimi mesi è sempre stato un po' il tallone d'Achille del gruppo. Infatti è stata scelta proprio la joint venture di Ericsson dal colosso Samsung come fornitore per una piattaforma destinata a due nuovi modelli della gamma di smartphone del gruppo Samsung, che si chiama appunto Galaxy. Due nuovi prodotti che saranno commercializzati nel corso del trimestre. SET si aspetta quindi, diciamo, un primo rilancio della joint venture, si aspetta benefici sul conto economico proprio grazie a questo accordo. Per quanto riguarda invece Fiat, la notizia positiva è l'annuncio, la prospettiva di un'introduzione di incentivi per il settore auto in Brasile, che è un mercato molto importante proprio per il lingotto, che è notizia che non era attesa nelle precedenti settimane, che quindi appunto ha galvanizzato oggi i titoli. Potranno essere estesi questi incentivi anche al settore commerciale, quindi ne ha beneficiato anche Fiat Industrial, che è salita del 5,44%. Tornando inoltre in un attimo al settore tecnologico, prima per ST, diciamo che inoltre tutto il comparto è stato un po' oggi spinto dalla notizia che Google ha finalizzato l'acquisizione di Motorola Mobility, quindi in linea generale tutto il comparto tecnologico e le varie società che lavorano nell'indotto della telefonia hanno beneficiato di questo annuncio. Una brevissima risposta al 349-238-6666, nemmeno una parola sul terremoto, no, ne parliamo tra pochissimo. I danni sono stimati adesso in mezzo miliardo, danni soprattutto all'industria e all'agricoltura, ma dateci ancora qualche minuto e arriviamo, perché la nostra Anna Marino oggi ha fatto un bel lavoro di interviste proprio sulla parte anche economica del danno del terremoto. Chiaramente non ce ne potevamo occupare all'inizio, anche così per un minimo di decenza. Comunque, Paolo Poronetto, al di là di Facebook, che abbiamo visto che come ha chiuso oggi, come ha chiuso, come sta andando oggi? In questo momento ha aperto in credo del 6% circa, adesso sta perdendo il 2,35%. Vabbè, mentre di Fiat abbiamo detto, le banche. Allora, UbiBanca si avvantaggia ancora del via libera della Banca d'Italia, e poi c'è l'attesa che possa arrivare anche alle altre, ma questo giustifica anche Unicredit Monte dei Paschi, più 5,7%? Ma diciamo che oggi appunto è una giornata positiva in cui gli investitori tentano di trovare fiducia alla vigilia del vertice europeo di domani, da cui ci si aspetta magari qualche indicazione sulle misure a sostegno della crescita. Quindi il settore come quello bancario, che in questa fase risente molto dell'andamento della congiuntura e della fiducia dei mercati, oggi ne ha beneficiato. In linea generale lo spread è sceso di quasi il 6% a 410 punti base, quindi ovviamente anche questo ha spinto il settore bancario. Per quanto riguarda appunto UBI, ieri è arrivata la notizia positiva del via libera di Banca Italia, che permette alla banca di migliorare i coefficienti patrimoniali e di portarsi in linea con i target dell'EBA, mentre oggi l'unico titolo negativo sul FTSE è il Banco Popolare, che cede l'1,6%, ma ieri aveva guadagnato quasi il 19%, proprio grazie a sua volta al via libera della Banca d'Italia. Anche sì, ieri è stato il botto del Banco Popolare, oggi torna a 1,01€, ma insomma sempre buono. Ancora Saipem, tra i titoli diciamo di altro genere, vorrei un commento su Saipem. Oggi in recupero tutti gli energetici, Eni più 3,5%, se li riesco a beccare, eccola qua, Enel più 1,20%, Snam più 0,80%. Segnaliamo anche tra i titoli che bene si sono mossi, Tenaris più 4,60% e Fiat Industrial più 5,44%, Azimut più 4,60%, Prismian, ossia l'ex Pirelli Cavi, più 4,5%, e come energetico anche A2A più 4,24%, diciamo di Saipem più 2,40%. Seconda giornata consecutiva di rialzo per Saipem. Ieri è arrivata la notizia di nuovi contratti offshore ottenuti dalla società per oltre 1,1 miliardi di dollari. Questa ovviamente è una buona notizia per il portafoglio ordini e per l'andamento futuro del business della società, e quindi la seconda giornata consecutiva che il titolo viene premiato dagli investitori. Ancora Banca Carige, l'abbiamo raccontato. Ah, Premafin e Gruppo Ligresti, eccoci qua, tornati a parlare di Fondiaria Assai. Premafin Finanziaria guadagna, ed è il miglior titolo in assoluto, il 30%. Voglio dire, è arrivato l'ok della Consob all'esenzione dall'OPA, però da quello che ho letto, a condizione che in realtà potrebbero anche far riaprire la partita. Però Paolo. Esattamente, infatti infatti questa mattina la Consob ha detto che l'Unipol può essere esentata dall'OPA e suprema fine fondi Aviasai, però a determinate condizioni, cioè devono essere riviste alcune delle clausole dell'accordo che erano stato raggiunto in particolare con la famiglia Ligresti. Infatti deve essere revocata la manleva concessa da Unipol a favore degli azionisti Premafin, e inoltre l'esenzione all'OPA potrà essere ritenuta inapplicabile se gli attuali azionisti di riferimento di Premafin, quindi Ligresti, eserciteranno il diritto di recesso. Questo naturalmente può consentire una riapertura della partita, cioè può permettere ai due gruppi di sfilarsi dall'accordo raggiunto qualche settimana fa, e quindi qualcuno specula sul fatto che potrebbe riaprirsi tutto anche con appunto l'inserimento dell'altra cordata in campo, cioè quella formata da Sator e Palladio. Su questo oggi appunto si sono concentrati gli acquisti degli investitori. Oltre a Premafin, che ricordavi tu, anche Fondi Aviasai ha guadagnato oltre l'8%. Allora, grazie, vedo bene anche Meridiana Fly. Meridiana, ci sono novità? No, noi non abbiamo visto più 20,2 nulla, è più o meno il secondo giorno consecutivo, sì, in cui il titolo si muove. Basta oggi più 13,90 e Banca Carige, abbiamo detto Ambro Immobiliare, il peggior titolo, meno 11,20%. Tra l'altro, volete sapere chi ha perso? Oltre al Banco Popolare, nessuno tra quelli ha maggiore capitalizzazione. Euro a quota 1,27,45. Grazie a Paolo Paronetto. Ci occuperemo dei danni economici al terremoto. Ripeto, non sono mai i primi danni che uno va a valutare, però a questo punto la stima stanziati per ora sono solo 50 milioni di euro, ma la stima è di un danno almeno di mezzo miliardo di euro. Prima di arrivare in questa intensa giornata dal punto di vista economico-finanziario, abbiamo parlato in apertura dei quattro decreti con cui il governo si attende di sbloccare dai 20 ai 30 miliardi di debiti che la pubblica amministrazione ha nei confronti delle imprese e del ruolo delle banche. Anche del rapporto Istat, che fotografa quanto purtroppo avevamo già intuito anche da soli, un italiano che non risparmia più, tornato ai livelli degli anni 90, in cui i salari reali sono fermi da 10 anni, ed è aumentata la pressione fiscale sulle famiglie. Dicevo, oltre a questo, la borsa è la migliore notizia di oggi, assieme a quella però del governo. Va detto che insomma quella, se partirà subito e se non vi saranno tensioni, cioè se tutte i vari soggetti ci metteranno massimo 60 giorni, quella sarà una boccata d'ossigeno vera e propria. Però l'altra buona notizia riguarda la borsa, più 3,40% oggi. E adesso invece arriviamo a due notizie meno buone. La prima è il calcolo dei danni sul terremoto che ha colpito l'Emilia, le province natali sono Bologna, Modena, Ferrara e Mantova, lo scorso 20 maggio, e soprattutto anche degli interventi già predisposti oggi dal Consiglio dei Ministri. Allora, dichiarato lo stato di emergenza per il territorio delle province appunto di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova, 60 giorni lo stato di emergenza, la competenza a coordinare gli interventi andrà quindi a capo del Dipartimento della Protezione Civile. Il fabbisogno finanziario per far fronte all'emergenza verrà coperto all'inizio, non basterà, utilizzando le risorse del Fondo Nazionale per la Protezione Civile, rifinanziato per l'occasione con 50 milioni di euro. Ma allora, visto che i danni sono di 200 milioni almeno all'agricoltura e 500 milioni almeno all'industria, più tutti i danni agli edifici, è chiaro che questi 50 milioni sono proprio l'inizio. Su questo, ha detto Mario Monti, troveremo le coperture adeguate, ma ha anche detto di aver parlato con il presidente della Regione Emilia-Romagna, Vasco Errani, sulla possibilità che i 5.000 gli sfollati, almeno quelle 5.000 persone possono vedere sospesi i pagamenti fiscali. Troveremo le coperture adeguate per questi interventi immediati. Poi rispetto ad altre situazioni che si sono manifestate altrove in Italia, questa situazione, ne parlavo col presidente Errani a fondo, è caratterizzata soprattutto da due cose: la necessità di riattivare presto questo tessuto industriale che è così caratteristico di questa parte d'Italia e così importante per tutto il paese, e anche le perdite diffuse e gravi che ci sono state nel patrimonio culturale. E su questi fronti ci attiveremo tutti al più presto, prenderemo non appena possibile un provvedimento per quanto riguarda i pagamenti fiscali, e col Presidente Errani si pensa ad un intervento che mobiliti le forze locali, le banche, per aiutare le situazioni degli imprenditori che devono riprendere al più presto la loro attività. Ho parlato appunto della volontà di sospendere i pagamenti fiscali. Quello che è certo invece è che per le case, per le aziende colpite dal terremoto arriverà il rinvio dell'IMU, lo ha chiarito oggi lo stesso Presidente del Consiglio, mentre non vi sarà un aumento delle accise, io dico non vi dovrebbe essere, per far fronte all'emergenza terremoto in Emilia, lo ha escluso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il governo sta comunque studiando un allentamento del patto di stabilità della regione Emilia-Romagna con il governo centrale. Io lancio una proposta, visto che abbiamo parlato di questi 188 milioni di euro che i partiti devono ricevere a luglio. Adesso domani, ha detto Cicchito oggi, potrebbe arrivare la notizia del dimezzamento di questi fondi, però insomma destinateli tutti quanti ai terremotati, lasciamo stare, io ho suggerito di ridestinarli a un fondo per gli imprenditori in difficoltà. Fate un gesto, non so, PD, PDL, Lega, ciò che resta di questi partiti, insomma, fate un bel gesto per dire siamo vicini a voi, no? I danni all'agricoltura li abbiamo ascoltati l'altro ieri, sentiamo oggi quelli all'industria, il direttore della Confindustria di Modena, Giovanni Messori, al microfono la nostra Anna Marino. È molto difficile fare una stima economica, io credo che non saranno meno di 500 milioni di euro, solo mi riferisco alle imprese industriali, ai capannoni, artigianali e a quant'altro, perché tra i nostri associati nella zona il 70% circa ha avuto danni strutturali abbastanza seri. Che cosa ci sarebbe bisogno di fare immediatamente? Guardi, la cosa più importante e più urgente, che peraltro si sta abbastanza verificando, è un esame strutturale anche di quei capannoni che invece hanno resistito bene, dove si può continuare l'attività. Quindi le imprese edili sono già in pronte? Molte imprese edili sono già preallertate. Quello che delle volte occorre attendere è la protezione civile, i vigili del fuoco e anche gli ingegneri strutturisti che diano l'autorizzazione a proseguire l'attività. Quante imprese, quante persone, quanti lavoratori sono stati colpiti? Noi, parlo sempre di imprese associate a Confindustria Modena, a ieri sera pensiamo fossero già circa più di 3.000 quelle da mettere in cassa integrazione per mancanza di attività. Quanto tempo secondo lei ci vorrà per... Guardi, dipende dai danni strutturali, si andrà da poche settimane ad alcuni mesi. Certamente io ieri ho fatto un giro per alcune aziende, anche le più disastrate, la voglia di riprendere è fortissima. Dicevamo dell'OCSE e del fatto che appunto abbia sostanzialmente confermato che l'Italia andrà in recessione nel 2012, ma purtroppo saremo in recessione anche nel 2013. L'area euro è la principale fonte di rischio globale, si regge nel rapporto di oggi. Il PIL dell'area euro quest'anno farà un meno 0,1%, ci sono segnali di ripresa globale, ma l'area euro va a rilento. E poi altre indicazioni di cui parliamo con il capo economista dell'OCSE, Piercarlo Padoani, in collegamento con noi da Parigi. Buonasera. Buonasera. Allora, voi dite, come ricordavo, l'eurozona, l'area euro è il vaso di coccio di questa debole ripresa globale, è la principale fonte di un rischio globale e chiedete che la politica monetaria sia più accomodante. Però i tassi sono già molto bassi,

invece del sud, dove i salari devono scendere relativamente a quelli tedeschi, e quindi se quelli tedeschi vanno su, quegli altri devono scendere di meno, il che naturalmente è importante per paesi nei quali già la disoccupazione è molto elevata. Poi secondo noi la Germania avrebbe molto da guadagnare, e con essa l'Europa, se liberalizzasse i suoi servizi, che attualmente sono molto protetti. Questo favorirebbe l'investimento, favorirebbe di nuovo la crescita e contribuirebbe a riaggiustare gli squilibri di bilancio. Quindi ci sono varie cose che tutti i paesi, e questo l'abbiamo detto molto chiaramente, devono fare e che potrebbero contribuire alla ripresa della crescita nella zona euro. Però nessun accenno, diciamo, all'ipotesi che, di cui molto si sta discutendo, debito in parte europeo, eurobond, o comunque non considerare nel deficit gli investimenti in infrastrutture per i singoli paesi. Sulla questione degli eurobond abbiamo anche lì detto molto chiaramente che riteniamo che ci siano le condizioni per cominciarne a parlare seriamente. Le condizioni sono, per esempio, che con il famoso fiscal compact c'è più garanzia di disciplina fiscale, di rigore in Europa di quanto ci fosse prima, quindi i timori che gli eurobond siano una scappatoia per non rispettare le regole fiscali dovrebbero essere tacitati. Quindi non c'è un tabù, non ci deve essere il tabù degli eurobond. Gli eurobond innanzitutto possono essere usati per diverse cose, possono essere usati per finanziare progetti di infrastrutture, possono essere usati per ricapitalizzare le banche e possono essere usati per creare un mercato europeo del debito. Questo magari richiederà un po' più di tempo, ma bisogna cominciare a parlarne seriamente senza timori, non stiamo parlando di cose impossibili e insostenibili. Immagino valga anche per dei progetti da finanziarsi infrastrutturali che non vadano a pesare sul deficit come una normale spesa corrente. Beh, anche lì bisogna guardare tranquillamente e con serenità la possibilità di un trattamento diverso dal punto di vista della contabilità di bilancio delle varie fonti di spesa, perché sono fonti di spesa che hanno un impatto diverso sulla crescita, certo. Quindi sono più o meno, diciamo, utili al paese che le fa. Un'ultima domanda, insomma, anche voi mi sembra che siete d'accordo nel dire un conto se tu hai il deficit perché hai troppe spese correnti, altra cosa se hai deficit perché stai costruendo autostrade, ferrovie o reti informatiche. Nel primo caso spendi più di quello che guadagni e di quello che incassi, nel secondo caso stai facendo un investimento per il futuro e per la tua competitività nel futuro. Ultima domanda riguarda appunto l'Italia. Lei già accennava al fatto del costo del lavoro che dovrebbe aumentare un po' in Germania in modo da aumentare la domanda interna in Germania, mentre deve scendere leggermente nei paesi più deboli, Italia, Spagna, ma non solo. Però voi notate oggi che l'Italia ha un serio problema sul costo del lavoro, e noi sappiamo che il problema italiano non è che costino tanto i nostri operai o dipendenti, è il carico fiscale che c'è in busta paga. Sì, infatti bisogna distinguere tra costo del lavoro e salario. Quello che noi diciamo è che in un paese come l'Italia il costo del lavoro è troppo alto per ragioni fiscali. Troppe tasse, cuneo fiscale, chiamiamolo come vogliamo. E di previdenza, certo, il cuneo fiscale. Ed è molto diversa la questione dei salari che vanno in tasca ai lavoratori. E poi in Italia c'è un altro problema che sta dietro il costo del lavoro troppo alto, che è la bassa produttività, che è da lungo tempo un problema che richiede come soluzione più innovazione, più efficienza e più investimenti in organizzazione. Quindi sono elementi di fondo, elementi strutturali che stanno dietro questo costo del lavoro troppo alto che si ripercuote in una scarsa competitività delle merci italiane. Per il resto invece il giudizio sulle riforme messe in piedi da Mario Monti sembra un giudizio positivo, il vostro, dico, anche se ricordate infatti che l'Italia è sulla buona via per cancellare il deficit nel 2014, che le riforme ci sono state, anche se dite c'è un ritardo nell'applicazione delle leggi? Diciamo che uno dei problemi dell'Italia, ma anche di altri paesi, è che magari si fanno delle buone leggi di riforma e poi la implementazione vera e propria, che dipende per esempio dalla pubblica amministrazione o anche dal grado di corruzione che c'è in un paese, viene ritardata. E questo significa che riforme importanti non si traducono in atti, in azioni, ma si traducono quindi in benefici per i cittadini, e naturalmente il consenso sociale per le riforme viene meno. Questo è un problema serio in Italia e altrove. Grazie al capo economista dell'OCSE Piercarlo Padoani in collegamento con noi da Parigi. Buonasera. Ed è veramente tutto anche per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17, poi torneremo a occuparci anche dell'iniziativa Disperati Mai. Oggi abbiamo preferito dedicare spazio invece ai danni da terremoto, danni economici da terremoto. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.